Antonio, vuoto Antonio, vuoto Antonio, italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Buona giornata, gentili ascoltatori, e benvenuti a Vota Antonio. Come ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete, che cosa succede ai nostri politici in rete. Vi ricordo come sempre i nostri contatti, ci trovate naturalmente su Facebook, Vota Antonio R24, potete scriverci votaantonio@radio24.it, siamo su Twitter, manco a dirlo, trovate me, Simone Spetia, e trovate anche l'account della trasmissione, Vota Antonio R24, mi raccomando scriveteci suggerimenti. Idee anche innovative sono benvenute, del resto se una trasmissione che si occupa di social network e di social media non fosse una trasmissione aperta sarebbe veramente un peccato. Iniziamo con qualche notizia in breve, qualche chicca di questa settimana. La prima non è propriamente una chicca, però insomma, visto che parleremo tantissimo di primarie in questa giornata, in questi due giorni, vogliamo riassumervi un po' delle pagine Facebook che ci sono in giro e che abbiamo avuto occasione di vedere sulle primarie. C'è l'epica, ormai epica, Marxisti per Tabacci, viaggia ormai su numeri di fan mostruosi, intorno ai 17.000. Naturalmente postando, insomma ormai la conoscerete, insomma, foto per esempio appunto di Tabacci rappresentato in luoghi incredibili accanto a Lenin o addirittura al posto di Lenin per esempio. La più bella in assoluto, sta generando cloni e spin-off. Ora c'è Marxisti per Tabacci, Mozione, Leone, Trotsky e tantissimi comitati locali, Trapani, Belluno, Palermo e Firenze. Ha quasi 5.000 fan invece la pagina Facebook Renziani per Bersani, un vero e proprio ossimoro. E sempre per Bersani c'è il neonato Grigiore bersaniano. Tra le frasi che abbiamo pescato, rigettiamo l'edonismo di Sabrina Salerno, preferiamo Giovanna Marini. Ancora c'è moderatamente bersaniani e infine ricordiamo ancora camerati per Matteo Renzi, i quali scrivono che, dato che gli hanno detto che Renzi è di destra, lo votano. Andiamo per un attimo dalle parti del centrodestra. Andiamo dalle parti del centrodestra perché, come sapete, c'è questa vulgata all'interno del PDL che, insomma, tutti i problemi arrivano da quelli di Alleanza Nazionale, da quelli che vengono da Alleanza Nazionale. Ieri è stato lanciato un hashtag, a dire la verità, abbastanza carino su Twitter, che però non ha preso abbastanza corpo da entrare nelle tendenze principali, ed è colpa degli ex AN. Il tweet principale, il top tweet, è stato di Massimo Corsaro, che scrive: casi ad insaputa, scosciate in Parlamento, gente a piede libero per un voto, primarie tiramolla, appoggio a Monti, tutta colpa degli ex AN. Oppure Salvatore Balducci dice: se Gigi D'Alessio continua a cantare è colpa degli ex AN. Angela Sorice: Alonso ha perso il titolo di campione del mondo non perché la Ferrari non è competitiva, ma per colpa degli ex AN. E vogliamo parlarvi però, e lo facciamo sempre, cercheremo di farlo sempre più spesso, di qualche bel esempio. Qua la segnalazione, ma in questo caso solo la segnalazione, arriva da un esponente del Partito Democratico. Si tratta di Pippo Civati, che come sapete si occupa di rete da molto tempo, è un consigliere lombardo del PD, che sul suo blog ha postato una bella conversazione del ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca. C'è un utente, è andato all'Aquila, Fabrizio Barca, c'è un utente che gli dice: venga con i mezzi la prossima volta, provi a spostarsi sul territorio aquilano e regionale con i mezzi pubblici. E lui risponde: tosta, ma questa è una buona idea, se mi costruite un itinerario che vi pare classico, lo facciamo insieme. E risponde ancora lei: le propongo l'itinerario che faccio io lunedì mattina per arrivare all'università, Balsorano, Avezzano. Se mi scrive mail all'indirizzo che trova in ministro coesione territoriale, risponde Barca, si organizza. E questo ci dà l'occasione per parlare di un altro bel progetto sempre fatto al Ministro per la Coesione Territoriale, Open Coesione, che è un portale sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007-2013 da regioni e amministrazioni centrali dello Stato, appunto con le risorse per la coesione. È bello perché sono dati pubblici. Questo sono stati pubblicati perché i cittadini, si scrive nel portale, possano valutare se i progetti corrispondono ai loro bisogni e se le risorse vengono impegnate in modo efficace. Dati che possono essere scaricati in forma di base dati grezza e rielaborabili, oppure visualizzati mediante grafici interattivi navigabili. Andateci opencoesione.gov.it e scoprirete che tramite la rete la politica può essere anche trasparente. E a proposito di trasparenza, ci fa piacere segnalare un altro caso, è quello del deputato del Partito Democratico, Alessandro Bratti, che ogni anno redige quello che ha definito il suo bilancio sociale. Vi riassume la sua attività parlamentare, legislativa, non legislativa, in commissione, la presenza a iniziative e convegni nella veste di deputato, l'attività svolta per il partito a livello nazionale e locale, la sua attività sui social network e poi, naturalmente, le informazioni economiche vere e proprie. Se tutti avessero fatto così, probabilmente l'antipolitica non sarebbe stata così forte come in questo momento. E però chiudiamo con un sorriso, chiudiamo con la vicenda della giustificazione da portare per non aver votato alla precedente tornata delle elezioni primarie, per insomma non essersi registrati prima per votare al ballottaggio. C'è un filmato assolutamente strepitoso che si chiama Cracca Stumpo e che trovate sul Post, www.ilpost.it, nella sezione di Macox, che è il vignettista del Post, nella quale ci sono una serie di giustificazioni da presentare a Nico Stumpo, che è responsabile organizzazione primaria del centro-sinistra. Mia nonna si è rotta il femore. Il cane si è mangiato il certificato elettorale. Avevo le mestruazioni, fortissimo. C'era il funerale di mio nonno. Ho i biglietti di Milan-Juve, vale. C'era il funerale di mio zio. Zio, quel giorno avevo judo. Gesù mi ha detto non andare. Gesù mi ha detto vai. Gesù mi ha detto vai col motorino. Mia nonna si è mangiata le mestruazioni del cane. Chiamami Iena. Un giovane del comitato tabacci ha provato a vendermi il logo per un male vice autentico. Quadrato verde su quadrato bianco, sfondo rosso. E verrà un cavaliere pallido, il suo nome sarà morte. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci, come sempre, nella seconda parte di Voto Antonio ci dedichiamo non tanto alle interazioni della rete con la politica, ma alla politica vera e propria, in una settimana piuttosto intensa, ancora una volta, e che ci porta al voto di domani, quello per le primarie del PD, il ballottaggio. Dunque è il momento del punto. Il punto di Stefano Folli. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Allora, indiscrezioni uscite ieri su Pubblico, sul quotidiano Pubblico. Bersani che si sfoga con i suoi e dice su Renzi: questi fanno sovversivismo, o si fermano o sarà scazzo vero, addirittura, insomma. Tensione molto alta, Stefano, e sembrava un bellissimo spettacolo di democrazia, forse si sta tramutando in qualcosa d'altro. Ma la posta in gioco è questa: dopo le primarie, ammettiamo che Bersani, come io penso, naturalmente è una previsione che può essere smentita, ma io penso che Bersani possa vincere queste primarie, non le stravince, non prenderà una quantità di voti che gli permettono di governare il PD come se la vicenda Renzi non ci fosse stata. No, la vicenda Renzi c'è stata, incide e inciderà molto sul futuro del centro-sinistra. Allora il punto è: ci sarà la possibilità di una specie di cogestione del partito, come in fondo Bersani vorrebbe, offrire a Renzi uno spazio di potere e insieme dare un volto nuovo al PD? Oppure invece rimane una ferita, una frattura? Ecco, la coda avvelenata delle primarie e questa durezza dello scontro degli ultimi, delle ultime ore fa pensare che sarà difficile questa seconda cosa. E come se Renzi preferisse capitalizzare al massimo tutti i voti che lui riuscirà a raggiungere, anche forzando le regole del secondo turno, portando la gente a votare in maniera massiccia se ci riesce, e poi però mettersi un po' sulla riva del fiume a Firenze, sulla riva dell'Arno, ad aspettare di vedere se Bersani riuscirà a cavarsela da solo. Questo vuol dire lasciare un po' una ferita e comporta un po' di pericoli. Naturalmente. Dall'altra parte notava, se non erro, Luca Ricolfi ieri sulla Stampa che... comunque, come tu già accennavi, questo prefigura un cambiamento radicale per il Partito Democratico, perché finalmente si formano le due, quelle che potrebbero essere le due anime classiche di un partito di centrosinistra europeo, cioè un'anima socialdemocratica e un'anima liberaldemocratica, insomma. Sì, questo l'abbiamo anche detto nei nostri appuntamenti telefonici di queste settimane e... ci abbiamo anche scritto, è ovvio che questo comporta un capovolgimento di fronte, insomma il vecchio Partito Democratico costruito un po' su una linea di continuità, diciamo dal vecchio PC che si trasforma, che si fonde con la sinistra democristiana, ecco questa cosa tende a finire, però che finisca in un modo armonioso come si potrebbe pensare o sperare pensando ai nostri problemi nazionali, o invece se finisce in un modo più traumatico, beh questo è quello che stiamo vedendo in queste ore. Da questo punto di vista il passaggio delle primarie è molto importante, cambia davvero il volto del centro-sinistra. Sia come sia, dominio assoluto della scena, tanto che in queste settimane il Movimento 5 Stelle pare che sia sceso, secondo gli ultimi sondaggi di SVG, di 1,5% nei consensi e il PD è in continua ascesa. Si parla solamente di quello. Sì. È sicuramente un bene per il Partito Democratico, forse queste primarie arrivano un po' troppo presto rispetto a quelle che saranno le elezioni politiche, insomma, per trarne per capitalizzare, come dire, questo consenso. No, hai ragione, sicuramente diciamo che la circostanza astrale in cui si svolgono le primarie è quasi perfetta per il Partito Democratico, perché dall'altra parte c'è un PDL che naviga nel vuoto più assoluto, nella confusione più totale, e quindi anche il voto di protesta Grillo, che si alimenta dalla mancanza di offerta politica decente da parte, diciamo, del sistema, e in questo momento incontra qualche difficoltà, perché il Partito Democratico, anche e soprattutto forse per il volto nuovo e per la capacità comunicativa di Renzi, capitalizza, attrae in parte, in piccola parte ma significativa, il voto che andrebbe se no chiaramente alle liste di protesta. E infatti non a caso, se tu hai notato, Grillo attacca soprattutto Renzi, attacca il Partito Democratico ma colpisce soprattutto Renzi, perché lo vede in questo senso un po' un concorrente. Naturalmente, ecco Stefano, tu accennavi già al Popolo della Libertà, tu sei molto più serio di me, magari io mi posso permettere di dirla questa cosa. A me Alfano fa un po' tenerezza, in tutta sincerità. Sì, beh, a questo certo, punto. Sì, hai ragione, fa tenerezza. Sembra sempre che voglia un po' allungare il passo, no? Cercare di mettere un po' di distanza fra sé e Berlusconi, ma quell'altro sia sempre una specie di, come fosse un elastico con cui poi lo richiama. E naturalmente tutto questo però si trasforma in un'immagine assolutamente negativa di quest'area politica, che non riesce più a intercettare il sentimento del paese. In questo momento si è creato uno squilibrio, è un sistema che ha bisogno, non dico di due poli, il discorso del bipolarismo come sappiamo è stato anche molto retorico, però ha bisogno di una serie di assetti, e in questo momento sull'area moderata non c'è una sorta di destabilizzazione permanente, e questo la storia ci insegna nel nostro paese non è mai foriero di buoni risultati, eh? Ci sono sempre dei pericoli in questo squilibrio. Poi magari ritorniamo sul PDL, e però questa situazione del PDL con un partito dato intorno al 15% fa sì, consentimi l'espressione forte, che il paese sia un po' ostaggio delle decisioni del Partito Democratico, paradossalmente. Per cui probabilmente il paese voterebbe Renzi come candidato alla presidenza del Consiglio, e però si ritroverà probabilmente Bersani. Sì, vedremo. Insomma, come dico, Io penso che il centrosinistra ha cominciato un percorso che forse finisce male, nel senso che finisce in un grande litigio, in un grande scontro, però la convenienza sarebbe invece di trovare una forma di composizione e di valorizzare questa... In fondo, Simone, abbiamo parlato per tanto tempo del sistema politico che non sa rinnovarsi e continua a non sapersi rinnovare, per carità. Però sul piano dell'immagine stavolta si proietta qualche cosa di meno negativo del solito. Si proietta l'idea di un partito che quantomeno prova a presentare delle facce nuove, prova a parlare di problemi concreti. È poco, pochissimo, perché insomma ci vorrebbe ben altro. Però è già qualcosa. Questo dal lato del PD. Io vorrei capire da te, Stefano, se ti sei fatto un'idea in queste ore tra l'altro nelle quali leggiamo che Alfano è stato, aperte virgolette, convocato ad Arcore. Sì, l'elastico, l'elastico. Sì, esatto, il famoso elastico. Se tu riesci a prefigurare che cosa può succedere nel campo del centrodestra nei prossimi mesi e nelle prossime settimane, perché veramente al momento una via d'uscita non si vede. Loro sono ancora, diciamo... incerti fra diverse linee. La prima linea è quella che si dice in gergo spacchettare, no? Cioè creare due o tre, più tre che due, formazioni, una personale di Berlusconi, poi una che sarebbe il vecchio PDL, un'altra degli ex AN, e quelli competono in quest'area e poi si fa la somma, no? Si fa una specie di alleanza elettorale, si fa la somma dei voti. È una linea molto avventurosa, mi sembra. L'altra sarebbe invece quella di riportare Berlusconi nel PDL, cambiargli nome, dargli una riverniciata, presentare delle facce nuove e presentarsi agli italiani in questo modo, quindi componendo dentro questa nuova sigla un po' tutti questi infiniti contrasti che ci sono e che tra l'altro hanno prodotto la prima vittima, cioè le primarie del PDL sono state accantonate. Questa seconda posizione, ti dico la verità, è un dibattito che mi appassiona poco, francamente. Mi piacerebbe più vedere qualche proposta un po' più seria, qualche figura effettivamente nuova. Invece non è così, appunto, si va avanti con le convocazioni ad Arcore, siamo ancora veramente in una situazione molto arretrata. Devo dirti la verità, è un vero peccato, perché l'ipotesi, se vogliamo, fantastica, di vedere un confronto per la presidenza del Consiglio tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi, che tra l'altro lo dico, mi dichiaro, sono della mia esattamente della mia generazione, quindi come dire, la cosa mi... Ti lascio questa soddisfazione generazionale, non sono sicuro di condividerla, ma ti lascio questa soddisfazione. Però insomma non sarebbe stato male, anche quello un bel segnale di rinnovamento tutto sommato, no? Ma, ho detto, ma, ti lascio la soddisfazione e la responsabilità di quello che dici. Di quello che dico. Senti una cosa, Stefano, vorrei chiudere con te parlando finalmente e un'altra volta di quello che ci diciamo ogni settimana, ossia che torneremo a votare col Porcellum, perché qua siamo all'ennesima dichiarazione, siamo vicini ad un accordo sulla legge elettorale, messaggio di Napolitano, l'ennesimo monito destinato probabilmente a cadere nel nulla, salvo per il fatto che Roberto Giachetti, che abbiamo citato la settimana prossima, ha interrotto lo sciopero della fame, e meno per male, gravi motivi di salute, probabilmente a un certo punto lo riprenderà, perché l'impressione è che siamo comunque ben lontani da un accordo e il rischio è che venga fuori una roba addirittura peggiore del Porcellum. Ecco, questo è il punto, esatto, e questo è il punto. Qui la clessidra si sta esaurendo, no? La sabbia, e quindi i giorni sono sempre meno, quindi sicuramente non avremo una buona legge elettorale, forse non andremo a votare con il Porcellum tale quale, però ci saranno dei ritocchi. Questi ritocchi probabilmente, ecco, hai ragione tu, rischiano di rendere la minestra ancora più indigeribile, e questo è una gravissima pecca che il sistema politico si porterà dietro e che condizionerà anche naturalmente il prossimo Parlamento. Secondo te dove andranno a parare i ritocchi, Stefano? Che idea ti sei fatto? Sul Senato, sulla Camera, su cosa? Su che aspetti? Che aria tira? Possono andare a parare sulle preferenze, possono andare a parare sul premio per il mancato raggiungimento di una certa soglia. Alla fine saranno delle questioni che non cambiano la sostanza di questa legge, che rimane brutta e che forse non riusciranno però nemmeno a garantire quello che si vorrebbe, cioè che il prossimo Parlamento sia meno condizionato da forze estreme e più in grado di offrire una qualche speranza di stabilità. Io spero di sbagliarmi, perché noi abbiamo disperatamente bisogno di stabilità. Grazie anche per questa settimana, Stefano Folli. Grazie a te. Attendiamo naturalmente l'ennesima dichiarazione settimanale su quanto sia vicino l'accordo sulla legge elettorale. Nel frattempo, appunto, ti salutiamo. Noi ci ritroviamo tra poco e abbiamo delle proiezioni su come può andare il ballottaggio alle primarie del PD, basate però sull'analisi della rete. Analisi della rete, quella fatta da Voices from the Blog, che nelle settimane scorse ci ha preso anche con gli swing states in America, quindi è molto interessante. A tra poco. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci, tra poco andremo a vedere i numeri per quanto riguarda le primarie del centrosinistra. Abbiamo un'analisi interessante, addirittura una previsione su come potrebbe andare il ballottaggio, basata appunto sulla rete. Mentre invece, come abbiamo fatto già la settimana scorsa, con Riccardo Puglisi, buongiorno Riccardo. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Invece di parlare di politics, ossia della politica, che qualcuno chiamerebbe la politica politicante, parliamo di policies, ossia di politiche, e nella fattispecie ci concentriamo sulle parole del Presidente del Consiglio sul Servizio Sanitario Nazionale, che tanta polemica hanno suscitato. Si è detto, insomma, che si voleva privatizzare il Servizio Sanitario Nazionale. Monti ha parlato in realtà solamente della sostenibilità a lungo termine, nel lungo termine del servizio sanitario, però insomma molto dibattito in rete. Su Twitter si è concentrato su questo, tanto che tra le tendenze principali di Twitter, sanità e SSN, che è la sigla, lo sapete, per Servizio Sanitario Nazionale, sono stati tra le tendenze di Twitter per un paio di giorni. Allora Riccardo, cosa esce fuori? Esce fuori esattamente questo, ovvero sia che mentre nel giorno precedente alla dichiarazione, cioè il 26 novembre, c'è poche menzioni di sanità, appena esce questa dichiarazione di Monti abbiamo un numero congruo di tweet, perché abbiamo 2100 tweet il primo giorno con dentro la parola sanità e un 2700 il secondo giorno. Infatti la cosa entra nei trending topic italiani, le tendenze italiane. Per quanto riguarda SSN abbiamo numeri piccoli, un po' più piccoli, 1300, che chiaramente vengono spiegati dal fatto che SSN è un termine tecnico rispetto a sanità, che invece è un termine che capisco anche se è più comodo, perché insomma restringe il numero di caratteri 140 da utilizzare per quel che si dice. Come sempre, quello che ci interessa davvero è andare a vedere che cosa si dice. Dunque, iniziamo dai tweet più forti, quelli principali, quelli che hanno riscosso maggiore successo. Io direi che c'è stato, ma in realtà una specie di monopolizzazione da parte di Emergency, cioè l'associazione senza scopo di lucro relativa appunto all'emergenza sanitaria nel mondo, per cui che ha i tre tweet che sono più twittati nel periodo. Quindi sono tre tweet che hanno all'incirca un 200 retweetate per ciascuno, e fanno riferimento ai trade-off, cioè alle cose che si possono comprare invece della sanità, ovvero sia quali sono le scelte di finanza pubblica da parte del governo. Quindi per esempio ce n'è uno che immediatamente dice: compriamo i caccia F-35 e poi non è garantita la sostenibilità futura dell'SSN, dichiara Monti. Poi ce n'è un altro in cui si prende a riferimento la trasmissione di Ballarò, quindi è un modo anche di avere più audience. Abbiamo salvato le banche, non salviamo gli ospedali, quindi Emergency riprende la dichiarazione di Crozza. Chiaramente. C'è un uso intelligente e di un gruppo di interesse, questo è evidente meritorio, eccetera, eccetera, però che prende l'argomento, la issue e l'affronta e viene e trova una ribalta importante in termini di retweet. Dal lato invece delle parole, Riccardo, che troviamo all'interno dei tweet, noi naturalmente lo diciamo sempre, lo ribadiamo anche questa volta, Twitter è un mix tra un social network e un news media, ossia un fornitore di notizie. Quindi Come sempre, qua tra le principali parole menzionate in realtà fanno riferimento in questo caso alla notizia, immagino, alla dichiarazione di Monti, no? Sì, direi che è assolutamente vera questa natura duplice di Twitter, per cui parte la notizia, però poi c'è una specie di, come dicevano gli Jalis, un fiume di parole, per cui si parte dal fiume di parole della dichiarazione di Monti per arrivare a delle riflessioni che sono connesse alla riflessione di Monti, quindi la parola sostenibilità, eccetera, eccetera, i numeri messi da Monti e la frase stessa da Monti compare, ma poi compaiono concetti che sono vicini, quindi compare il concetto della privatizzazione, finanziamento, tagli, scuola, pubblico, abolire, privata, privatizzazione. Queste parole relative a un destino diverso del finanziamento della sanità pubblica compaiono, in effetti oggi, nei giorni successivi, Monti ha dovuto dichiarare che questa, la sostenibilità non significa privatizzazione. Naturalmente, e compare anche F35, appunto, se non sbaglio, no? Compaiono le F35, compaiono i numeri relativi, quindi in realtà ci sono i numeri, nel senso che le persone nominano il costo dell'F35, dovrebbe essere 100 milioni di euro, e il numero di F35 dovrebbe essere 90, quindi questi numeri compaiono nelle ricerche, quindi si cerca sempre un po' di concretizzare, individualizzare le cose, e si vede anche in questo, però è interessante il fatto che si veda la polemica sull'uso, cioè proprio di policy, questo trovo l'aspetto interessante, cioè che si discute in una, neanche senza tanto dialogo, perché in realtà ci sono tanti retweet eccetera eccetera, la gente non dialoga molto quando si va alla sostanza, questo si è il va alla sostanza e si va alle scelte che sono scelte economiche, cioè o questo o quell'altro, perché tagliate da questa parte, non tagliate da quello, quindi devo dire un dibattito interessante emerge. Grazie anche per questa settimana al nostro Riccardo Puglisi, lo trovate su Twitter, Rick Puglisi. Io poi a volte mi dimentico di ricordarla questa cosa, però Riccardo è prestato a noi, per così dire, da un mondo in realtà di economisti, è economista all'Università di Pavia, insegna anche alla Bocconi da quest'anno, sì, no? Sì, sì. Grazie Riccardo Puglisi anche per questa settimana, e ora andiamo naturalmente sul ballottaggio delle primarie. E lo facciamo con una persona che ormai è un habitué di questa trasmissione, però insomma, dato che ci fornisce i dati interessanti e delle cose importanti di cui discutere, è giusto ospitarlo. Luigi Curini, buongiorno, un'altra volta, buongiorno Luigi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Luigi Curini dell'Università Statale di Milano, del progetto Voices from the Blogs. Che cosa fa Voices from the Blogs? Analizza il sentimento della rete, se così possiamo dire, e cerca di tirarne fuori dei dati. Spesso lo fa con un'ottima approssimazione. Prima di darci i dati su cosa emerge dal ballottaggio, cosa prevedete voi per il ballottaggio tra Bersani e Renzi, dati questa volta elaborati in esclusiva per Votantonio, per la nostra trasmissione, ci dici, Luigi, come sono andate le cose invece dal lato del primo turno? Perché mi sembra che anche là ci siete andati molto vicini. Sì, ci siamo andati direi molto vicini, nel senso che l'errore medio tra le nostre previsioni dell'umore della rete verso i 5 candidati e quello reale è stato inferiore, l'errore medio è inferiore al 2%, che è più o meno lo stesso errore che hanno avuto gli ultimi 6 sondaggi che sono stati pubblicati nell'ultima settimana prima del primo turno. E l'altro aspetto interessante è che la distanza che avevamo previsto tra Bersani e Renzi, avevamo previsto una distanza di 10,5 punti, si è praticamente quasi realizzata, perché poi la differenza fra il primo e il secondo candidato al primo turno, cioè tra Bersani e Renzi, che si è effettivamente verificata del 9,6%, quindi dati molto simili che ci dicono, secondo me, che ascoltare la rete è utile, nel senso che ci dà delle informazioni importanti, però è importante cercare di analizzarla nel modo appropriato, cioè andando al di là del semplice numero di dimensioni che si fanno nei confronti dei vari candidati o del numero di followers o di like su Facebook, perché l'informazione che è presente là fuori deve essere pensata e analizzata nel modo più appropriato, perché in caso contrario può essere molto fuorviante. Che è sostanzialmente quello che fate voi. Io per dare un'idea, ve lo spiego io, in sostanza che cosa si fa? Si prendono dei tweet, un numero consistente di tweet, nell'ordine delle decine di migliaia, voi di fatto li scartabellate, insomma vi mettete là e li selezionate, prendete solamente quelli nei quali c'è un'esplicita preferenza per un candidato e poi su quella base resettate un algoritmo che analizza tutti gli altri. È così, Luigi, sostanzialmente, no? Esattamente, cioè l'aspetto fondamentale che differenzia il nostro approccio dagli altri che sono presenti è che unisce la parte manuale con la parte automatica. Cosa significa? Che noi effettivamente leggiamo i tweet che scarichiamo, che si riferiscono in senso ampio, ad esempio sul primo turno, tutti quei tweet che in qualche modo parlavano dei cinque candidati, però ne leggiamo un piccolo campione di questi. Questo aspetto è fondamentale perché leggendoli si riesce a capire aspetti che utilizzando invece sistemi completamente automatizzati vengono persi, ad esempio il doppio senso, il cambiamento di linguaggio che può avvenire, via dicendo. Una volta analizzati manualmente questo piccolo campione, il nostro algoritmo estende all'intero universo, che come tu dicevi può essere di decine e decine di migliaia di tweet, l'analisi fatta manuale su questo piccolo campione. E questo aspetto che lega appunto l'aspetto manuale a quello automatico che rende il tipo di analisi che facciamo, o che riteniamo che rende il tipo di analisi che facciamo, particolarmente accurata, anche nel in qualche modo generare una previsione sul risultato finale. Lascio ancora un attimo in sospeso i nostri ascoltatori sulla previsione per il ballottaggio, perché naturalmente è anche quello che vogliono sapere, per chiederti se analizzate solamente Twitter o se prendete in esame altri mezzi di comunicazione, se lavorate per esempio anche sui blog, tanto per dire, o su Facebook. Capisco che da quel lato l'analisi sia molto più complessa, ma riuscite a metterci mano? Allora, sui blog sì. Detto questo, però, noi riteniamo che un aspetto fondamentale sia il tipo di social media che viene analizzato. Il grande vantaggio dal nostro punto di vista di Twitter è che è un sistema aperto e interattivo, e questa è la sua grande differenza rispetto ad esempio Facebook, che è tendenzialmente un sistema chiuso in cui si interagisce solo ed esclusivamente con gli amici, tra virgolette, con gli amici che si hanno. Al contrario, Twitter è un sistema che permette continuamente l'interazione con un pubblico più vasto, con cui ad esempio non si ha una conoscenza diretta. Ed è questo, secondo, dal nostro punto di vista, l'aspetto che rende l'analisi su Twitter e catturare l'umore su Twitter particolarmente interessante rispetto ad altri format che possono essere appunto Facebook o un altro format come quello dei blogs, che comunque rispetto a Twitter stesso è comunque un sistema tendenzialmente più chiuso, in cui si parla più che altro a se stessi piuttosto che cercare di comunicare agli altri. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci finalmente, sempre con Luigi Curini dell'Università di Milano, di Voices from the Blogs. Dunque, Luigi, illuminaci, che cosa prevedete per questo ballottaggio Renzi-Bersani? Beh, diciamo che noi abbiamo analizzato per l'appunto i tweet, più di 30.000 che sono stati pubblicati in questi ultimi giorni. Quello che possiamo dire è che al momento in testa risulta, in modo, se vogliamo, non molto sorprendente, Bersani con il 55,3%, mentre Renzi al momento gode, sulla base delle nostre stime, di un sostegno del 44,7%. In questo senso l'aspetto più interessante, se vogliamo, è che la differenza di percentuale tra i due, che è del 10,6%, è esattamente simile a quella che noi avevamo stimato per il primo turno. Questo cosa significa? Sembrerebbe in qualche modo che nessuno dei due contendenti sia riuscito, tra virgolette, a rubare il voto o il sostegno virtuale da parte di chi sosteneva gli altri candidati durante il primo turno, o che si sono riusciti a rubare questo sostegno virtuale esattamente nella stessa quantità. Il che è piuttosto difficile in realtà, insomma, sarebbe abbastanza strano, insomma. Sì, sarebbe strano, però leggendo appunto nella parte che facciamo appunto di codifica manuale i tweet, quello che emerge è che in realtà, ad esempio, alcuni, anzi in realtà diversi sostenitori di Vendola esprimono la voglia di votare per Renzi in questo secondo turno più che altro come un'espressione di rifiuto rispetto al sistema inteso in senso molto ampio, cioè come volontà di rottura rispetto a quello che sembra, perlomeno da parte di questi utenti, rappresentare ancora il segretario del del resto mi sembra illuminante da questo lato. Abbiamo trovato sul sito Misurare la Comunicazione una bella analisi del confronto TV che ha avuto naturalmente un'ampia eco su Twitter, e nella cloud, ossia nella nuvola delle parole più utilizzate nei tweet di quella sera, sicuramente la più forte è Casini, non naturalmente come sostantivo evidentemente, ma come nome. Si parla di Pier Ferdinando Casini, probabilmente, evidentemente, il fatto che Renzi abbia rifiutato l'alleanza con Casini in maniera così netta e così decisa, probabilmente qualche impatto anche sui vendoliani l'ha avuto. Da questo lato staremo a vedere. Io adesso, Luigi, però ti voglio anche chiedere un po' che impressione hai avuto da questa campagna per le primarie, che forse è stata la prima campagna italiana che veramente si è giocata un po' di più sui social network. Naturalmente niente di paragonabile con gli Stati Uniti, insomma. Io ho avuto l'impressione negli ultimi giorni le cose, così come si sono incattivite a livello pubblico tra gli esponenti del PD, si sono incattivite anche sui social network in maniera anche piuttosto evidente e anche abbastanza fastidiosa, fatemelo dire. Io assolutamente condivido questa tua opinione ed è un aspetto interessante. Noi avevamo seguito anche le elezioni americane, sempre su Twitter, tra Obama e Romney, e quello che avevamo osservato negli ultimi, soprattutto negli ultimi giorni della campagna, era che le persone che scrivevano su Twitter non mostravano neanche più un appoggio esplicito per un candidato, parlando ad esempio di programmi. Quello che assistavamo era che i Twitter diventavano sempre più conflittuali e divisivi, in cui appunto si attaccava l'altro piuttosto che sostenere la propria parte, il programma della propria parte. Quello che abbiamo assistito nel caso degli Stati Uniti, negli ultimi giorni della campagna elettorale degli Stati Uniti, lo stiamo assistendo anche in questi ultimi giorni, in questa campagna elettorale, perlomeno vista su Twitter, in cui per l'appunto gli utenti di Twitter, piuttosto che esprimere un sostegno a favore di Bersani e Renzi, come avveniva invece durante il primo turno, acquistano sempre più un approccio conflittuale, adottano un framework conflittuale in cui appunto ci si contrasta con l'altro piuttosto che sostenere la propria parte. Chiarissimo. A proposito di elezioni americane, giusto per chiudere, Luigi, voi lunedì, tra l'altro, all'Università Statale di Milano avete un bel appuntamento su questo e con un bel personaggio che è stato al centro della campagna elettorale digitale di Obama, no? Sì, esattamente. Noi, come Voices from the Blocks, organizziamo assieme al Consolato Generale degli Stati Uniti un evento all'Università degli Studi di Milano alle 3:30 che ospiterà Michael Slaby, che è stato, che è tuttora uno degli spin doctor fondamentali dietro alla campagna di rielezione di Obama e che si occupa per l'appunto della campagna elettorale sui social media. Quindi dal nostro punto di vista e dal punto di vista di chiunque è interessato a cercare di analizzare il rapporto tra nuove forme di comunicazione e campagna elettorale, credo che sia proprio un appuntamento imperdibile. Vedremo quindi alle 3:30 all'Università Statale di Milano. Grazie a Luigi Curini anche per questa settimana. Tra l'altro, la settimana scorsa gli avevamo detto: verificheremo se le vostre previsioni sono azzeccate, e insomma, tutto sommato le avevano azzeccate. Al momento 10 punti di distacco dunque tra Renzi e Bersani. Chiudiamo qua anche questa puntata di Vota Antonio. Vi ricordo i nostri contatti: Vota Antonio R24 su Twitter, Vota Antonio R24 anche su Facebook, Vota Antonio @radio24.it, oppure se volete c'è anche il mio di account Twitter. Simone Spetia, un augurio di buona giornata, grazie a Fabio Cantadori in regia, e ci sentiamo sabato prossimo alle 9:00.